Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. 3 anni fa, era il maggio del 2010, la Grecia divenne il primo paese dell'area euro a ricevere assistenza finanziaria dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale in cambio di un programma di interventi preparato dalla Troica, Commissione, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale. Un anno più tardi, Irlanda e Portogallo hanno imboccato, loro malgrado, lo stesso sentiero. Presentando a Bruxelles uno studio realizzato dal centro Bruegel sugli effetti del piano di assistenza della Troica su questi 3 paesi, l'economista Guntram Wolf spiega che mentre per Dublino e Lisbona i risultati ci sono, l'unico successo vero sulla Grecia può essere considerato il fatto che Atene sia ancora nell'euro. Il piano, spiega Wolf, era troppo ottimista rispetto alle previsioni di crescita e sul processo greco di privatizzazione. Era ottimista anche sul fronte della riduzione dell'evasione fiscale, che era stata prevista ma non si è realizzata. La sostenibilità stessa del debito veniva messa in discussione quasi subito, eppure il riconoscimento formale di questo specifico problema è stato fatto solo molto più tardi. C'è poi da sottolineare, prosegue l'economista, che le condizioni dell'intervento europeo non sono state così favorevoli ad Atene ed hanno anzi imposto un ulteriore fardello sulla Grecia. Infine, il dibattito poi rientrato sulla possibile uscita di Atene dalla zona euro di certo non ha aiutato e ha finito per rallentare il ritorno degli investimenti e i tentativi di rilancio economico. 20 maggio, dunque tra 3 giorni, ricorre il primo anniversario del terremoto in Emilia. Il Consiglio Comunale di Modena ha indetto una seduta straordinaria. Laura Bettini ne ha parlato con Simone Arletti, che è assessore comunale con delega alle politiche europee. L'intervento dell'Europa è stato fondamentale. Da quando è stato istituito il Fondo Europeo di Solidarietà nel 2002, l'erogazione maggiore che è stata fatta è proprio questa, di 670 milioni della Commissione Europea, che hanno si sono serviti per il ripristino immediato delle infrastrutture. Pensate a tutti i problemi che abbiamo avuto con la rete dell'elettricità, idrica, fognare, i trasporti, le telecomunicazioni, la sanità, perché ovviamente erano in disuso tutti gli ospedali, oltre che ovviamente tutte le sedi dei comuni, tutte le sedi anche delle aziende locali che distribuiscono i servizi essenziali. Poi sono stati messi a disposizione degli alloggi temporanei e per i servizi di soccorso per la popolazione terremotata. In seguito sono state realizzate anche opere di prevenzione per proteggere il patrimonio culturale. Quindi questi contributi non sono andati direttamente ai cittadini, ma sono andati a questi urgenze fondamentali. E ancora Laura Bettini ci fa il punto sul rapporto annuale RAPEX, il sistema di allerta europeo per le merci pericolose. Ci sono buone e cattive notizie in questo rapporto, dice il commissario europeo ai consumatori Tonio Borg. Le cattive sono ovviamente che ancora circolano in Europa prodotti pericolosi. Le buone sono che i controlli aumentano e che abbiamo un sistema di sicurezza buono che stiamo cercando comunque di migliorare. Nel 2012 sono state adottate oltre 2.200 misure contro merci pericolose, alimentari esclusi. Un aumento del 26% delle notifiche rispetto al 2011, dovuto principalmente ai maggiori controlli effettuati. Giocattoli e vestiti sono in cima alla classifica dei prodotti più segnalati per rischi chimici, da strangolamento o di lesioni. Nel 58% dei casi si tratta di merci provenienti dalla Cina, nel 17% sono fabbricate in Europa. Le autorità più attive nella segnalazione di prodotti a rischio sono quelle spagnole e finlandesi, ma tutti devono fare di più, esorta Silvia Maurer, della BEUC, Organizzazione Europea per i Consumatori. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo il servizio di consulenza giuridica La Tua Europa, fornito dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea a Roma, che può essere di aiuto per capire i propri diritti di cittadino europeo. Il servizio offre la consulenza di un avvocato, gratuita e personalizzata nella propria lingua, in una settimana dalla richiesta. L'obiettivo è aiutare a chiarire la normativa europea applicabile al proprio caso, spiegare in che modo è possibile esercitare i propri diritti e indicare quale organismo può offrire un ulteriore aiuto se necessario. Per informazioni, ec.europa.eu. E naturalmente tutto su Radio24.it, Gianmarco Ferronato in regia, Gigi Donelli al microfono, Europa 24 torna lunedì poco dopo le 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.